Allora. Attenzione al canale 10, c'è qualcuno? Chi è? Oh, ecco, qui avanti. Chi sei? Storio solo. Ciao Antu, Carlo da questa. Ma salutoni Carlo. E beh, tutto sistemato, stai arrivando a bomba qua. Tutto sistemato. Adesso c'è la 5 ottavi ho messo. Adesso il segnale è pulito, anche la radio, bella. Radio Super 5, ti sento fondo scala qua il segnale. Appagato. Sì, ho messo la cosa. Una Sirio GPE ho messo, il radiale. Già sono ottime quelle dell'Assirio. Senza radiali, Anto, ho capito bene. Tre radiali e una 5 ottavi. Ah, ho capito. Sì, ma guarda, le Sirio io le ho sempre avute e mi hanno dato sempre buone prestazioni, capito? Kappa. Ma non sai che sento anche più bene io a te? Anche, non so, mi dà questa sensazione, la radio soprattutto, che sia più forte. Può essere che magari si senta meglio anche la radio, capito, quando è buona. Io di Sirio avevo quella che avevo prima di questa, no? Adesso c'ho la Game Master, quella che mi aveva dato Claudio, senza radiali, però ha due spire lunghe, una lunga e una corta, capito? Una specie di GIFA, infatti si chiama J-Pol, capito? E niente, questa va benissimo. L'altra che avevo era una Sirio ed è la, te lo dico subito, dovrei averlo ancora qua, il coso, eccolo qua, è la SD27, quella, il dipolo che avevo io, lo potevi mettere sia in orizzontale che in verticale, ce l'ho ancora, l'avevo pulito, poi l'ho conservato, lo tengo, a volte non serva, e avevo buone prestazioni anche con quello, ho fatto un sacco di DX. Cavolo, sì, io ti sento benissimo, va bene. Adesso il segnale non lo so perché dovrei andare con l'altra radio, qua non c'ho lo smitter. Però non si sente un fruscio, nulla, una bomba, sì. E con questa antenna arrivo un po' dappertutto, dai, tutta questa zona riesco a coprirla bene, qua a Sassari, in tutte le zone, arrivo sino tranquillamente ad Alghero, Castel Sardo, solo che non è che ci sia più nessuno in 27, poca gente, d'estate qualcuno in più, capito? E niente, poi arrivo sino a Bonnannaro, quella zona lì, da Claudio, Muros, quella zona lì già ci arrivo lo stesso, già va bene questa antenna. Io a Muros arrivo 9, cioè 9.25 arrivavo con l'altra antenna, adesso con questa non lo so. Penso che con questa arrivi anche più forte, perché le ultime volte che ti avevo sentito avevi ancora l'altra sicuramente, però questa è bella pulita, la radio te la fa pulita pulita. Ma non ho detto che c'è la radio un bel forte, stavo anche stamattina con l'altro, ero con l'altro apparecchio, ho detto cavolo abbassa perché sei fortissimo. Non lo so. Sì, sì, no, questa è limpida, limpida proprio la radio, non si sente niente sotto, sento solo la tua voce. Infatti non è che ce ne sia bisogno di amplificazione di microfono con queste radio, già va bene il microfono normale. Tanto qui metti l'amplificatore microfonico e distorge o satura troppo, capito? Devi stare sempre a regola, invece microfono suo io e basta. Sì, no, comunque ti sento un bel bene. Qualcosa ha cambiato, adesso non riesco a capire in che cosa, però ha cambiato qualcosa. Non c'è nessun altro sul canale 10, mi sa. Io ho acceso adesso così a fare un giretto, ho detto vediamo se c'è qualcuno. Non c'è nessun altro, c'è solo un bambino che si appende nei posti che papà non vuole. Vieni qua, vieni qua, che ti fai male. E quanto ha adesso tuo figlio, Anto? Un anno e tre mesi e mezzo. Il cavolo, adesso scartina, inizia a camminare, a correre, adesso è il periodo del mal di schiena. Mamma mia! E i giorni scorsi ho sentito di mattina, una mattina lo stesso Giulio, Luca ogni tanto entra, però Natalino qualche volta lo sento, però non ho sentito più Gianni, gli altri quasi nessuno, dai. Io ogni tanto provo a bussare ma non risponde mai nessuno. È entrato stamattina e mi ha detto che entra stasera alle 6:30, mi ha detto. Gianni stai dicendo? Sì, ja. Vediamo se c'è stasera a fare quattro chiacchiere. Mi ha detto così, mi ha detto che sarebbe entrato verso le 6:30. Ho capito. Vabbè, Anto, dai, ci sentiamo più tardi nel caso, mi metto a fare alcune cose. Un bacio al bambino. Ok, va benissimo. Mi nome giocando qua. È buono, sta giocando, sta torturando questa. Già lo sento, va buono, dai, ci sentiamo più tardi nel caso, ciao Anto, saluti. Sì, ciao, cosa vuoi fare, vuoi parlare anche tu? Saluta, ciao, è una sagoma qua. Tra un po' te ne prende tutto, radio quanto c'è. Non si tocca quella ancora che è piccolino. Ciao. È una scena, è ok, dai, ti lascio fare. Sto lavorando a casa col bambino adesso. Ah, madonna. Se l'avete a passeggiare, dove capita lì? Cosa? Non ti ho capito. Non l'ho portata a passeggiare. Mi sto tornando dall'asilo, ma è anche morsicato. È monello, sì. E aveva fatto i denti. Ha musicato a me. Sei tutto rado, non sei appena. No, io sto facendo la notte. Faccio la notte. Poi sabato e domenica giornata e poi mi metti a fare la notte. Che cappa. Andava. Ma com'è il resto non è stato il tutto. Cos'è succedendo? Tengo pra pra pra pra pra. Sì, il microfono, ecco, ma non cazzo. Può frazzeghino. Oggi l'ho cambiata. Esatto. L'antenna ho cambiato. No. Sì, ho messo una Sirio 5 ottave. Ma la carica come te, rispondeva come a te. Quando va bene la carta. Perché me la... No, che la signorina me l'ha indirizzata a chiamare. Ho deciso di cambiarla. Ho capito, ma non c'è stata luce da sotto, sai? No, stamattina ho messo una a 5 ottave, ho messo. Visto che me, cioè, non ce l'ho mai avuta, Non ho mai avuta la 5 ottave, il cavolo. A 5 ottave io non ho certo avuto la 5 ottave. Vabbè, le avvocate sono quelle che sono di su, però l'unica era 5 ottave, quanto va 1, quanto va 5. Le ho avute in antenne. Adesso vediamo questa se va bene. Facendo un po' di macellino, sta facendo. E non ti sento. Camina adesso? Sì. Buffi. Come senti? Sì, ti sento ora. Adesso cammina. Sì, cammina sì. Adesso sì, un po' cammina. Gattola cammina. Già si misureggia. Ma è una peste, piccolina. Ecco la risulta. Cosa ti ha detto male? Ah, poi se per ragioni è dopo, cosa vuoi che ti dica? L'unica cosa che ho adesso, ho a lui. Ma posso fare a lui? E via. Però che è allegro, giù grande, Quindi adesso le ha fatto ancora di più la terra. All'incirca della stessa altezza, all'incirca. Da sola per piazzare? No, mi ha aiutato una persona. I pucciati grandi, a Abuja sono contento io. E mi sembra che comunque come ricezione sia un po' meglio. Credi che ci sia stata questa grande differenza, Il microfono ci vuole buttato tra un po'. Quello lì. Ah, non vedi problemi. Ma il tuo? Il tuo? Sì, già lo so. Che no. Ma c'è pure in posizione a cucadrumissimi. Sto lavorando? No, non sto lavorando, no. Ma penso che a metà settimana qualcosa me la faccio. Che non stavo neanche bene, no? Non sto neanche bene in salute. Curati. Adesso comincia la stagione mia. Cosa c'hai a voce, Gabriele? Adesso comincia anche la stagione mia, l'uno sicuramente devo lavorare. Siamo a Porto Torres. Azienda alla Torre Aragonese. Azienda. Venga. Chita azienda. Ah, è stato un po' di vecchia. Oh, questa azienda. Tu su racconta, suona. Ah, ioi. Cazzo, dove si è sentato questa azienda? E strappando, riprova. Adesso ho resuscitato Zapparud. Zapparud è morto, c'è il nuovo cantante, Nicola Mitte, Mitti. Ma lo gioco che morto. C'è quel nuovo cantante, c'è. Io l'anno scorso non ho fatto una bella stagione. Ma non è più come prima stagione era quando c'era Zapparud. Questa azienda sono sempre loro, Gino Marielli e cosa, Gigi Cameda. No, ma il cantante è la Zapparud. Cosa entra? Tutta la musica. Sì, vabbè. Secondo te, secondo voi ti piace anche questo cantante di adesso? Io ho sentito in serata e faccio quel lavoro lì e tutto ed è bravo questo qua. Fatta giù Gendi e Gabriele. Fai puzza, se mi fate male rubini mi fate male, sono con cagiuto. Basta fare qualche fisioterapia, qualcosa, mettiti qualche fascia. Comune di Gicualti in moldo, praticamente è una schiuma che si mette per far passare il dolore. Ah, quello che usano i giocatori. Che marasucci del genere. Quello è ghiaccio per addormentarlo. Che ne qua tu? Sta sempre sperimentando, eh. Allora, adesso bene, mi ascolti? Ecco. Già non credo, via. Adesso si dà. Ma è il microfono non lasci lì. Qualche microfono sai parlare, tutto il tanto. No. Non vado, lasci lì, questo qua. Vecchietto sarà. Questo qua c'ha la pelle, ma pensando questo serve più. Beh, cosa pretendi? È andato di burudro come? Questo qui è della GTE, due microfoni dinamici che c'ha la rotella sopra la regolazione. Ho capito. Non si vedrà nulla, sì. Eppure esce bene quando funziona. Questo lo devo aprire, sicuramente qualche cosa c'è poco, qualcosa, dove c'è il volume dell'amplificazione, è per quello che fa questo problema qui. Sicuramente è per quello. Perché vedi adesso mi ascolti? Hola. Io ti ascolto. Vedi, è la rotella, adesso ha un po' di polvere adesso. Sì, un bel di cose bisogna. Che radio stai usando? La base? Midland. Ah, veicolare. È un Midland 100 Plus. Versione EB. Ho capito. È quello che stavo usando, quello Colt. No, non era il mio. E lo so. Quello mio stesso ci va bene. Sì. Certo che esca bene. Non era il mio, ho capito. L'ho provato così. E la storia che era del tuo vicino in casa. Cazzo, più secco di cazzo nel letto, cazzo è più a duro di schiena, sì. Tutto lo mangiano cucato, va bene che sono arrivato alle 7 a casa. Beh, è normale. Se arrivi in chiave devi dormire, perché ha tempato tutta la notte. Cazzo, ma mi sono bisogno altura. Ma poi a stare troppo coricato, cazzo sei peggio di prima. Peggio più, non lo so. Più stai coricato più dolori c'hai. ti sei dovuto per forza coricare, perché è come che tu hai fatto una notte intera, hai fatto e stavi dormendo giustamente. Sì, dormendo, dorme sveglio, non riesco a dormire la mattina, lo so. Quindi se riesco a dormire dormo quel paio d'ore il pomeriggio e basta. Però se travagli di notte non mangiano, devi dormire, anche dopo devi pigliarsi il vizio. Lo so, è così il lavoro, No, io già dormo già. Se faccio una notte intera, poi la mattina dormo. Vabbè, a te, perché non è un condominio dove sono io, da te sono cattesane due famiglie. Da me sono di tutte famiglie, casera deca, madre. Fate un casino. Lui lascia perdere. Cosa vuoi fare? È un montinaggio, che barato. Guardate, le boom boom boom boom boom. No, quello no. A monte, c'è. Vabbè, i quattro primori sono fatti da tavetrata, sono lì dei fini. E quando parli sentono tutti. Vai, come esportano i liti, tira, mola, vai, cazzo. E le gatte sono. Io, cazzo, sono orecchie file, non ho sentito un minimo rumore. Parlavamo più. Quando c'è rumore non dormo. E adesso dormo. No, io già dormo, via. Altro che cose, io già dormo. Mi ha dato i vari giorni pesanti. Io no, io se appena sento il rumore, io subito mi sveglio. Addirittura. È così, il lavoro che faccio io è così. Io quando magari ti si abbiocca un po' gli occhi, ti si cala un po' gli occhi, anche quando si ha lavoro, ma quando senti apparare qualcosa di tale, subito apro gli occhi. Quello è il lavoro, è cosa, però io devo dormire di giorno e di notte sto sempre con gli occhi aperti. Poi sì, anche se dormi di giorno, la notte ti si cala anche se riposi gli occhi. Difficile. Io stesso, anche se riposo, non riposo bene, però ti ripeto, non riposi 8 ore, ma riposi 2-3 ore massimo, neanche. Poi fai la notte, durante la notte verso le 2 ti viene l'abbiocco, neanche te ne accorgi, però non è che dormi, perché ogni tanto ti si calano gli occhi, ti svegli, ti si chiudono gli occhi, e ti è caduta. Sì, ma è normale, perché logicamente devi fare il tuo lavoro, però come ti chiedo che si dormi anche qui. Lui, lascia perdere. Se non è lavoro per lui, no? Ma che se diceva, quello che dico io? Sì, già. Però arrivava, si caricava già dalle 9 e dormiva. Bella arena, infatti già l'avevo fatto la fotografia quando dormiva. La fotografia è arrivata al foglio di via. Sì, no, gli hanno fatto il video pure, come lo usava, pensa tu, come lo usava pure, gli hanno fatto il video. Il video era sei guardie, oh, yeah. E poi tanto rumori non ne sentiva, c'era quel sonno pesante, non sentiva neanche rumori. Sì, ma non è roba baretto, no? Sì, io ho iniziato a fare questo lavoro qua, avevo 21 anni, altro, non è da adesso che lo faccio. Ho iniziato a 21 anni, fate il conto. Ma quando mi hanno dato un comando di fare questi lavori qua, non dormivo mai la notte, mai. Ma cioè, a parte che c'è responsabilità, se c'è qualche cosa, o vedi qualcuno dentro che gira a rubare, a so chi ce l'abbiamo lì a documento lo saranno, se l'abbiamo fatto avere qualche cosa. Brutto così però, eh. Non era per fatta durare cosa che ha durato, 2 mesi ha durato. Fritta qua. Meglio per lui. Ha durato 2 mesi e poi ce l'hanno fatto facco mollo di via. Poi l'unica cosa è che non devi prendere troppo caldo, eh. Non devi prendere troppo caldo perché sennò guai. Dopo si vantava. Cosa si vantava? Lui, lascia perdere. E tutti i vanti dici che non è vero, sì. Ah, ma vediamo. Ma... Fatti i vanti due. Io stesso, io guardavo su a Milano, ho fatto sia portavalori, sia guardia armata. Per lavoro mio non me l'ha mai insegnato nessuno, me l'ha insegnato solo il capozona dove ero su a Milano. E piano piano il lavoro lo imparavi, ma lui non era per lui quel lavoro lì, assolutamente, perché non sa neanche come si svolge un cartonamento. Devi stare attento, devi stare sempre con gli occhi aperti. E poi ti porto un tablet, un qualcosa. Questa notte, guardando, ogni tanto devi prendere, o col telefonino, sai, ogni tanto prendi, ti fa un giro di ronda e poi rientri. È sempre così, la notte deve anche passare così. Lo so, purtroppo tutti non sono così, per loro sembra un gioco, non è un gioco, è un lavoro che deve stare con gli occhi dietro alle spalle. E poi è un lavoro che ti prende anche la denuncia, mi se rubano qualcosa, cazzo, un casino, un insieme. Si prende la denuncia la ditta e si prende la denuncia pure lui che non ha svolto il suo lavoro. Va bene così. Adesso il contratto finisce ad aprile, marzo, aprile, il 31 aprile finisce il contratto, poi dovrebbero rinnovarlo fino a quando dura il cantiere, perché a gennaio, agosto dovrebbe finire i lavori. Ah, ma la luce ve l'hanno messa, sì? Sì, la luce, il gruppo c'è, devi accendere il gruppo e c'è luce e la soffetta. Hai visto? La luce già c'è. Meglio di nulla. No, già c'è il gabbioso, c'è quanto, già. Ma non la fermo mai, a parte che sto in macchina, perché sto meglio in macchina, mi abbasso un po' il sedile, mi guardo il televisore, perché c'ho il capo, ma se no mi guardo qualche film, qualcosa, e passa così loro. In effetti se stai al buio, cioè, anche io quando ero a Porto Torres stavo al buio, cioè quando lavoravo dentro il chiosco, non ne volevo luce, stavo al buio. Appunto, è meglio al buio, perché loro al buio ti vedono nella luce, se sei nella luce. Tu non vedi a loro, è loro che vedono a te perché sei dentro al gabbiotto nella luce. Ma io volevo la luce spenta. Ma così deve essere, io lo stesso, io mai stato con la luce accesa, mai stato, perché sei più sicuro al buio. C'è gente che ha paura, che ragazzi, lascia perdere, gente grande, no, non voglio fare la notte, c'è paura, e allora che cazzo si aiuta a fare oggi? Ma me, io scendevo a Porto Torre sugli adi d'estate e facevo la guardia, facevo, però vedi, no, lascia un cacciare, no, spegni tutto, io devo stare al buio qua. Una pila che beve per controllare qualcosa, dove devi controllare, io ho la pila, però la pila la accendo quando sto controllando i mancari, ci sono mancari di materiale che costa e basta, però quando sei in macchina sempre al buio totale, ragazzi, va a luce e fuoco, ma vai. Io non ho... Io stesso non stavo, preferivo stare al buio totale, perché se poi vedi qualcuno che ruba, cioè se qualcuno vuole rubare cosa, se lui ti vede si spaventa anche, perché vede la persona dentro, capito? Ma non è per quello, se lui ti vede, allora il buio, è meglio stare al buio per non vederti quello che fai e quello che non fai, e poi sei più tranquillo tu, perché se sei nel gabbiotto con la luce loro passano al buio, ti vedono quello che fai e quello che non fai, invece di controllare tu a loro, sono loro che controllano a te. E anche per quello, anche per quello, per questo motivo qua. Io no, guarda, io ne ho fatto servizi nelle ville, nei conti, ma ville lui lascia perdere, ti metti le mani in testa, lì dovevi girare una macchia, ti perdevi dalla villa che c'era lì. Una volta ne sono uscito, si è spaventato uno, ha cominciato a correre, ne sono uscito da dietro, non si è manca bizzardo, come ha visto solo quando ero lì si è cominciato a correre, chissà cosa buria va. All'improvvisata ci sono una notte mi viene gana di va evacuare, dai, ha giubilato uno di chi si gascente gatta per aggiù fatto che mi trento gatta sono andato di guidi, siccome viene lo fa un'altra ditta, lo fa dove c'è il mare lì, mi sono messo ed erano di sedi negizi, e no, io non lo docco, chi sono, non lo docco, era una bella massata, vera, mamma mia. Cazzo, è un pazzo furioso. Tanto era al buio, quindi, ma, e cosa dovevo fare? Ma dovevo fare il pantalone? C'era un bagno, quei bagni chimici, non l'hanno messo. Fatto bene male, noi ce l'abbiamo il bagno. Che cazzo, si appaga la taglia. La ruda, ovvero? Quelli devono mettere, i bagni chimici ci sono. Ogni settimana vengono, lo puliscono. Non vera. Non vera ruba, non vera, ci ho bugliato la di questi cascetti che ha tanto fatto la sorpresa a te. Cazzo di malettone che fai? Cazzo di malettone, malettone Maui. Avevo per la biglietta di muro. Dio mio. Ecco perché volevo anche volevo il buio. Ma come ti vede fatto, Arturo? Il Gallindì, la stessa Gallindì. Della frutta a me di chi si plastica, ha giubilato per giocare a gatto dretto, cazzo, me lo do milioni da mettere a volte, no, sta giocando lui, ma domanda non la stai facendo? Domande di lavoro non la stai facendo? Sì, devo riandare a farle, questo periodo non sono tanto in vena. E comunque già mi stanno chiamando a lavorare. Meglio sì. E poi il curriculum te l'avevi fatto? Devo fare ancora. Che cazzo? E quello ti serve, quello devi fare. Io già lo faccio. Cosa dici mai? Esatto. No, ce l'ho con Gabriele che vuole giocare. Siccome uno è del demagno, cioè sono due ditte separate a Porto Torres, e uno è del comune di Porto Torres, la strada. Aspetta, la ditta gurisidinese. Alvedi no, grazie la messa a te. La violetta, senti il profumo della Mauri. Chi è che ha fatto questo? E tu gli devi dire, questa è la carta che ci ingaggia a passare. Vado un altro, dai, ci sentiamo a casa più tardi, che mi stacco un attimo. Ok, che te le risate. Noi l'abbiamo fatto quando facevamo lavori di edilizia, quando ero più ragazzino. C'era uno che cazzo che si cagava e metteva la madre alle portici, nei cavalletti. Come prendeva i cavalletti, tutte le madre è merda. C'è il gatto che è ubriaco. Cazzo fatti dire, ma che cazzo è che capo che a me che boh? Mamma mia. Prima si faceva questi così qua, cazzo, si divertiva. Ma io l'ho fatto per necessità. Meno male che mi porto sempre con gli affari di emergenza. Io quando vado in posti, cioè dei rotolini sono. Quando non va giù, va giù ghisse. Quando compri certi cose di carta igienica, ti danno i rotolini, ti danno. Altro ti faccio vedere, di emergenza. Ti mando la foto. Ma è tese, dai, io mi avevo la carta igienica. Io porto questi qua per l'emergenza. Quelli tascabili sono. Allora. Ah, ho capito. Dipendono insieme alla carta igienica, li vendo in certe carte igieniche. Ne togli il pezzo, ne togli e c'è il rotolino. Ma quello te lo porti dove vuoi. Io non ci ho fatto caso, sinceramente. Le che sono senza il coso, senza quel coso in cartone. Magari li ho visti, però non ce l'ho presente. Quelli lì. Quelli me li porto per l'emergenza fuori, li metto dentro lo zaino. Vabbè, tanto, dai, ci sentiamo a casa ma più tardi, dai. Yeah, ok. Ciao. Sai che fruscende? Io, buongiorno. Ciao Tone, buongiorno. Ah, ma non dai due secondi che entro in bagno? Fai, non c'è problema. Stai dicendo? Cambiare l'acqua di olive. Ehi, chi è che sta uscendo a fischi? Chi è? Ciao, sono io. Ciao, sono i presentiti, sono tutti. Ciao, te con la schiena non l'hai trovata, no? No, ho fatto a controllare dentro quello scatolone, niente. E anche un altro lato uguale identica. Cosa c'hai da vendere? Da vendere? Boh. Cosa ti poter vendere? Non lo so. Io sono tipo che compro. Quando c'è una roba che mi interessa, compro. Adesso è bello parlare in PMR che c'è un po'. Ci hanno messo un po' di radio, come regalo, hai visto? 446068.75. Tu schiacci qua, dammi. Va bene. No, non ho capito. La frequenza, che frequenza è? PMR, frequenza PMR, 446.0.108.75. Ci hanno messo un, qualcuno ci ha messo un pause, no? Ora che ci guarda la batteria scarica. Mi va, schiaccio. Allora, senti? Cos'è la tua batteria scarica, io? Ti sento un po'... Sicuramente c'è la cambiare la batteria al microfono. Sei nuova, però ho passato la potenza del microfono. Va bene così. Strano. Antonello. Dimmi tutto. Mi senti bene? Un fischio c'hai, ma io ti sento. Sì, un fischio. No. Non c'è il fischio adesso. Quando ho detto no, il fischio è sparito, poi è ritornato. Forse c'hai il microfono vicino all'apparecchio, non lo so. Sì, quello sì. Aspetta, l'ho acceso. Com'è la frequenza? Dimmi piano piano. 446.068.75. Sarebbe il canale 6 per l'esattezza, canale 6 PMR, quindi fa più veloce arrivarci. Aspetta, 4 sì, una terza, che se ne scappa. Rientra nel coso, puntatore d'antenna che c'ho, dovrei spostare il puntatore d'antenna giù preso. Comunque c'è un ponte, io schiaccio, guarda. Ah, lo prego, sta bello. Sì, ma chi c'è quella frequenza? Va bene, ok, l'ho scoperto poco fa, e non avevo poco di tempo che non usavo il PMR, in realtà. Ho attaccato l'antenna dalla X300, me la sono trovata tutta piena d'acqua dentro. Scendeva quest'acqua dal cavo, non capivo gli altri provvedimenti, se l'avevo preso, ho attaccato quell'antenna lì, cioè mi sono divertito. E sento questa ponte, che roba non c'era prima. Addirittura sento anche il ristorante, quello che c'è 140 grammi, deve essere quello di pedalieta che usano i portatili. Porta piatto di maccheroni al tavolo numero 5. Ma in quella frequenza qualche nuovo almeno senti? E in quella frequenza parlano, ma mentre lavoro non c'è. Io il punto non lo eccitano perché sono dentro, non ho capito. Aspetta, che non scrivo che non mi ha segnato, vabbè. Altro dei cazzo. Dai, Antonio, ripetimelo. 446.068.75. Questa è la frequenza che corrisponde al canale 6 in PMR. Ok, 446.068.75. PMR canale 6. Esatto, se tu schiacci senti il ponte che si eccita, non ti preoccupare, se decidi da qui figurati tu. Ecco. Antonio, ciao, buonasera. Buonasera a te. Ecco, io non vado dopo tante senti, vanno finito per me, mi ha staccato sempre sulla scala in piedi, per carità. Tu pensi alle 8 la sedia a lavoro, uscivo alle 3:30. Penso che poco a poco mangiavo via, ritornavo alle 2:30, però a travagliare ci vorrei in mezzo, senti, Franco, tu pensa, per questo mese perfetta. Come va, stai di nuovo lavorando? Ma stai facendo i lavori che li fatti tuoi? È lavoro conto mio, mi sono fatto 2.000 euro, non ho capito, grazie, tutto il piatto lì di nuovo. Andò. vabbè, tu sì. Ah, così che va bene. Sì, ma ti volevo dire, anzi, lo sai che la Energy che l'ho provata oggi, quella che c'ho io adesso, provvisoria. Adesso là se fa una bella giornata, mi attacco quella lì, ci metto la mano perché è già pronta a installare. L'Energy, cazzo, lavora molto bene in PMR. L'ho provato oggi, è un siluro, cazzo. Lo so, non lo so. Io vedo se c'è stazionaria, non lo so questo. Dunque io ho la stessa gemella della tua, però la mia è 5 ottavi. Va bene, funge. Non funziona, l'ho provata oggi. Ho fatto la prova, e c'è vedere se funziona in PMR, perché la Mantova non andava molto bene, mi ricordo. Non ce la faceva, invece la Energy, cazzo, lavora molto bene, lavora. Ho provato a tutti gli altri che sentivo quei ragazzi che lavorano lì, io sono la faccessa, figurati tu, che ci hanno portato, sentivo chiaro e forte da qui, meglio della direttiva, come se l'avessi di fronte a casa. Quindi è meglio della 700 pure, come dice il signore, figurati tu. Allora vuol dire che lavora bene. Non ne ho idea io, perché non l'ho mai collegata a quella roba lì. È la prima volta anche che la provo, la sto provando. Mi sembra che vada bene. Ah, c'è una buona antenna, non so se lo avessi in questo momento io. Adesso domani ci vedi, se fa una bella giornata che non c'è vento, salgo su, ne stacco la Energy e ci rimettono l'altro qua sopra. Devo pulire il palo prima però, perché c'ho il palo più di ruggine, capito, proprio rugginoso. E quindi non fa molta massa, c'ho quasi 1,3, 1,4 di stazionari, quando piove scendiamo ne 1. Riceve bene, trasmette bene, ho fatto un bel po' di extra con questa antenna. Non sai che dalla tua mia c'è l'unica differenza, io radiali non ne ho, invece dalla tua ci sono i radiali, la bobina, non la bobina, lo stilo dovrebbe essere un pochettino più lungo, dovrebbe essere 7,50 la tua, invece la mia dovrebbe essere 5,60. Non lo so, forse la mia è un po' più alta, non ne ho idea. La mia c'è radiale, è un po' diversa, non so se è diversa, ho notato che è più alta della Ringo, ho notato, sicuramente, Ah, già funziona, già funziona. Se mi vedi in mezzo da diario questa qui, sai come pompa, come un treno pompa. Nel basamento c'ha i tre fori, no? Per metterci la placchetta sotto, quindi basta che mi procurano quel tipo di placca che si usava una volta per metterci i tiranti nelle antenne. Basta avere quelle lì che c'ha tre buchi. È fatta. Per metterci i radiali, se no basta fare qualche modifica strana, l'alluminio già si è intanto la stessa misura di quello che c'è tu, quindi non c'è nessun problema, già si può modificare già, e allora da qui come prendere il necessario e fare la modifica sotto, e avanti Tonino è sparito, avanti a Tonino predica tu. Se allora quella che ho io è 6,50 è alta. Sì, lo so, è lunga 6,50. Invece quella è la 5 ottavi. Quella è lunga 5,60 in pratica. Più corta quella che ho io, ma un pochettino più lunga quella che ho io, giusto? Esatto, sì, la bobina è uguale però, è precisa la bobina, l'ho controllata e è precisa identica. la bobina è precisa, però la cosa è più alta l'antenna. Infatti, si può allungare lo stesso, basta metterci uno stile di Grand Play, avete già un pezzo, farla a 7,50 e metterci i radiali e diventa 50, non è che sia. Ecco, la bobina è precisa, è uguale. Le stesse spire, lo stesso cortocircuito al centro, c'ha. Quindi non è nessun problema, però vi riceve bene. Non ci arrivo io il segnale. Prova. Fa tre prova. 9,20. Andava. Ah, voglio c'è anche l'avanzo. Già va bene, dai. E certo che va bene, ci mancherebbe. E ho. Sto provando. Cioè, provando, nel senso che la Mantova se n'è andata in corso, già lo sai, l'avevo sciolta. Però con 800 watt l'avevo sciolto tutto. Ho detto che c'è, che parte la pelle e si va la bobina, quindi ho dovuto ricostruire tutto nuovo. Quel pezzo lì, ho dovuto metterci un pezzo di cavo da 1,5, potrei essere la 1, ho messo la 1,5 perché di più non ci sta, si è male, lo faccio entrare. E anche è male anche a saldare. Allora gli ho messo quello, poi io gli ho fatto passare il capo fuori, gli ho messo una bandella, si ricorda, anche non si ricorda, gli ho messo come si chiama, smalto per unghie, dopo gli ho messo il bullone, smalto per unghie, ma voleva isolare bene tutto, poi si ricorda sopra. Ma... c'è andare bene comunque come antenna. Ci vuoi rimettere la manta, ma ci vuoi rimettere? La manta va pesante, già lo sai, lascia perdere. Tanto vedi che devi pompare 1000 watt e tu. Quindi, massimo, se ti puoi combinare, arriverà a 500, a 400. La manta va pesa, mentre lavoravo così mi... Riparirà bene di munisce antenne. Massimo mi se la trovo una mantova 1, allora sì che cambia la musica, ma le altre no. Sì, ma come la ce ne sono tante a Sassari, bisognerebbe solo andare a staccarle, cercare il andare nei condomini, chiedere a capocondomino se si può staccare, invece di fortunato magari stanno facendo nel periodo che c'era il bonus 110%, si veniva anche meglio a salire se portetto qua, perché ti potevi legare eccetera eccetera e lavoravi bene. Bastava che dovevo al capocantiere, capito? Guardi, vorrei staccare l'antenna perché il proprietario mi ha detto di staccarla, se deve pensare lui nella sua. Basta dire che il proprietario, che proprio non me lo già lo conosce, e te l'avessi staccata. Solo adesso, così come adesso, con la ricerca di Luca di Abruzzi, ce l'hai evitata tu, già sei metto in palo da solo, come cazzo fai, non ce la fai, no? Ci vogliono altre persone. Prima staccarmi i tiranti a uno a uno, poi smollare il palo da sotto e piano piano curvarlo, e non è così facile, no? Dopo un po' di anni. E poi avrei anche la fortuna che l'antenna si possa smontare. Lo so, Antone. Così. Bisogna vedere. Ce ne sono tante abbandonate, tante abbandonate.